3. La ricreazione. La giornata non è ancora finita. Le professoresse di matematica e di lettere sono gentili. Alexandra vuole parlare bene, ma è difficile. A ricreazione i compagni di classe giocano e ridono, ma non parlano con lei. Alexandra è molto triste. Va alla macchinetta delle merende, vuole una cioccolata calda. Arrivano Tozzi e De Belli, due ragazzi della scuola. Tozzi è molto alto e grosso, ha 15 anni. De Belli è un bel ragazzo, magro, con gli occhi azzurri. Tozzi e De Belli sono molto amici. Sono famosi in tutta la scuola perché si comportano male. Sei nuova? Ci dai un euro? Non posso, ho solo questo. Alexandra mette l'euro nella macchinetta, ma Tozzi prende la cioccolata. Alexandra dice: «È mia!» «Allora tieni!» Il ragazzo getta la cioccolata nel cestino. Tozzi e De Belli ridono e vanno via. Alexandra piange, ma non dice niente. Arriva la signora Mariella e le dà un euro. «Tieni, cara. Quei due ragazzi sono due bulli.» «Grazie», dice Alexandra, ma non prende l'euro e torna in classe. Il primo giorno di scuola in Italia è una tragedia.